Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre, come ogni sabato, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, lo dico ogni sabato, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti facilissimi, rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chiusa Twitter Il sabato del villaggio. È un po' lungo, quindi usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma mi hanno dato una buona notizia: abbiamo ancora a disposizione alcune coppie di biglietti per il tour di Ruggeri. Io sono stata a sentire Enrico Ruggeri a Milano, mi sono divertita tantissimo. Abbiamo ancora due coppie per la data di Campione, Teatro del Casinò, 16 maggio, e altrettante per la data di Roma, Auditorium Parco della Musica, 25 maggio. Cosa dovete fare? Mandarci un SMS al 349-238-6666 con tutti i riferimenti, insomma il modo per contattarvi, e speriamo che sia, insomma, possiate essere i primi ad aggiudicarvi queste due coppie di biglietti. Campione, Teatro del Casinò, 16 maggio, Auditorium Parco della Musica a Roma, 25 maggio, per le ultime date del tour di Ruggeri. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Torneremo a Expo, lo faremo molto in questi sabati, con un Expo Ambassador, un uomo dolce come il cioccolato, Ernst Knamm. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di fotografie, tanto cinema con tutte le novità del weekend. Ma subito, abbiamo voluto la bicicletta? E beh, allora pedaliamo. Alfonsina, le tette sgonfie, Alfonsina si faceva fino alla mattina, Alfonsina le gomme piene, Alfonsina una ragazza, questa storia non conviene, Alfonsina le gomme piene, Alfonsina che ci avevi nella testa, che ci avevi nelle vene, Alfonsina le tette sgonfie, Alfonsina si faceva fino alla mattina. Beh, insomma, almeno una donna al Giro d'Italia, una donna che conduce il sabato del villaggio. Omaggiamo Alfonsina Strada con questa bella canzone di Ted Dubois. Alfonsina Strada, beh, un simbolo del ciclismo, parte il Giro d'Italia. Ve l'avevamo promesso che saremmo tornati a parlare del Giro d'Italia nel momento in cui questo giro fosse partito, e quindi abbiamo in studio il nostro Dario Ceccarelli. Ciao Dario. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Sei caldo? Sei pronto? Sì, sei allenato? Sì, mi continuo a allenare, a girare attorno alla redazione. Prima di ogni notiziario faccio qualche pedalata mentale. Mentale, ai noi, mentale. Giro d'Italia, nel quale, beh, intanto ve lo ricordo, ci occupiamo tantissimo a Radio 24, tutte le mattine alle 7 c'è il nostro speciale, e poi nei giornali radio, e poi in tutti i convocati. Però qui al sabato del villaggio ci divertiamo un po' a parlare delle passioni. Quindi Giro d'Italia, passione per la bicicletta come sport, anche un po' di turismo, perché è bello andarlo a vedere il giro. Sì, il bello del Giro d'Italia è che è veramente il Giro d'Italia, cioè, è una banalità, no, però, no, però è quella, è quell'Italia che di solito non si vede quando andiamo in macchina, in autostrada, quando andiamo nei soliti posti che andiamo in vacanza, eccetera. Invece il Giro d'Italia ti porta in quelle stradine, in quelle, in genere appunto, che non sono autostrade, che sono dimenticate dal grande traffico, e quindi ti permette di arrivare in quei posti, in quelle regioni che di solito ci dimentichiamo un po', e quindi è bello per questo, almeno nei miei ricordi di Swivel, come si dice, Swivel, mi trovavo, che bello, in certi posti che dicevo: ma qui cosa c'è? Ah, è l'Italia, non so. Mi capitava soprattutto al sud, non per fare il solito discorso sud-nord, ma perché si respirava un'aria così di altre epoche, con questi bambini che aspettavano tutti il giro, con le maestre, le bandierine. Quest'anno, lo abbiamo detto prima, chiacchierando, bevendo il caffè prima di venire in onda, poco sud. Però si parte, parte con la Liguria. Sì, qui è una quattro giorni Ligure, che Tra l'altro la notizia è che si parte da Sanremo. Di solito il ciclismo arriva a Sanremo. Anche la musica arriva a Sanremo, però sì. La Milano-Sanremo è la classica delle classiche, no? E invece quest'anno il Giro d'Italia parte proprio da Sanremo, proprio per dare così una pennellata di nuovo. E poi l'altra cosa è che sono 4 giornate e che arrivano praticamente fino alla Spezia, ma la novità è quella di oggi, che c'è questo cronoprologo che da San Lorenzo al Mare arriva a Sanremo, 17 chilometri. Ma dove vengono fatti questi 17 chilometri? Su praticamente una pista ciclabile che è stata ricavata da una vecchia ferrovia dismessa, e quindi siamo proprio al confine tra la costa e il mare, in questa pista ciclabile, che è un omaggio anche a tutti gli appassionati che il ciclismo lo praticano. Ecco, adesso non voglio lanciarmi chissà dove, però è un po' però si sposano il ciclismo dei professionisti a questo punto col ciclismo degli appassionati, che è un po' la ferita che c'è stata un po' in questo periodo, nel senso che il ciclismo è sempre stato uno sport popolarissimo. Le ultime vicende che hanno toccato un po' questo sport, che non stiamo qui a toccare perché le conosciamo, il doping eccetera eccetera, hanno un po' ogni tanto allontanato il grandissimo interesse che aveva il ciclismo per esempio rispetto al calcio eccetera. Però nel frattempo sta crescendo un mondo della bicicletta sempre di più. Se tu vai in città, se il bike share, certo, se vai certo nei posti di vacanza, mountain bike dappertutto, piste ciclabili dappertutto. Quindi è curioso che in un momento in cui vanno tutti in bicicletta il ciclismo fosse meno seguito di un tempo, e quindi bravi, direi, l'idea di ricongiungere questi due mondi. Per chi avesse la fortuna in questi giorni di trovarsi in Liguria, o anche per chi semplicemente accendesse la TV, cosa c'è di bello da vedere? Perché a me piace anche guardare i panorami dall'alto in TV, Beh, sì, c'è di tutto. Beh, le Cinque Terre, tanto per, è un posto dove è così strette. Beh, poi questa pista ciclabile è fantastica, perché proprio hai il mare vicinissimo e la montagna, chiamiamola così, che si inerpica di fianco. Poi è un continuo susseguirsi di alti e bassi, perché la Liguria la conosciamo stretta, però con questi speroni di roccia, i capi, no? Come ce ne sono a Milano-Sanremo, e questi angoli che ogni tanto sfuggono alla cementificazione selvaggia che ogni tanto c'è stata. E quindi io non saprei dire un posto più bello della Liguria, perché poi sai com'è, i liguri ci tengono, se dici una cosa e poi sei dopo un po' di parte, con la Liguria. Sì. Anch'io, perché amo tanto Sanremo, sai, però gli ascoltatori lo sanno, mi conoscono, io sono brianzola, sono molto molto molto di parte quando si parla di Brianzoli, certo, di Monzesi, certo. Io non posso, cioè lui è un mito, lui è un mito della mia infanzia, quindi sono anche un po' emozionata perché ce l'abbiamo al telefono. Fammi sistemare un po' sulla sedia un po' più comoda e un po' più elegante. Buongiorno a Gianni Bugno. Buongiorno a voi tutti. Che meraviglia, Dario. Gianni Bugno, campione Giro d'Italia. Tutti lo ricordiamo, mise la maglia rosa il primo giorno e non la lasciò più. Anche per me era uno dei primi giri da giornalista, per cui è un ricordo molto così bello di quell'anno lì. Gianni, qual è il fascino del Giro d'Italia ancora secondo te? Ma il Giro d'Italia ha quel fascino che tanti altri sport non hanno, perché è a contatto con la gente, è a contatto col territorio che attraversa, il giro, altre corse, e quindi è uno sport, diciamo, popolare, che piace a tutti, perché poi tutti si immedesimano nei corridori che attraversano quei posti che altrimenti non si potrebbero vedere se non con la bicicletta, perché ci sono dei posti che con la macchina non si riesce ad arrivare. Certo, è bello. A te che impressione faceva? A me piace sempre pensare alle persone che si accalcano attorno alle strade per vedere passare il giro, perché io l'ho sempre fatto e quando passa dalle mie parti lo faccio ancora. Ma a un ciclista, che sensazione dà, che impressione fa avere le persone attorno che lo sostengono, che tifano, che lo aspettano? Ma sicuramente è sempre una cosa molto bella, cioè, che dà stimolo al corridore, che si vede la gente, il pubblico che lo incita. Anch'io tante volte adesso capita di andare a vedere qualche corsa, dico, invece mi immedesimo le persone che si mettono lì al bordo delle strade ad aspettare la corsa, che poi vedono un attimo della corsa, però è sempre un fascino particolare, cosa che invece quando correvo non ci facevo caso alla gente che c'era attorno, tutto il tipo che c'era, che era importante per il corridore. Ma adesso ho capito anche il fascino di mettersi al fianco al sul ciglio della strada per aspettare la corsa. Che meraviglia. Io l'altra volta già, Dario, te l'avevo chiesto quali sono i posti migliori per mettersi, chi non ci avesse sentito, per mettersi a vedere le, passare le corse. Beh, di sicuro è meglio mettersi quasi all'arrivo di una salita, perché hai il modo di vederli passare più lentamente possibile. Anche perché certo, soffrono come cani, cioè, e quindi li vedi bene. In discesa, ecco, non conviene molto, perché ti vedi come in Formula 1, vedi passare uno a 90 all'ora e buonanotte. Cioè, e certo, poi passare una volta sola è banale, ma quando la carovana è passata. E quindi è meglio, ma infatti gli appassionati lo sanno e cercano sempre dei posti, andando il giorno prima, addirittura arrivano con le roulotte, con le macchine, si mettono lì, fanno il picnic, mettono giù la coperta con tutte il salame, il vino, la cosa, eccetera, eccetera, e si godono una giornata di ciclismo. Ecco, questo è veramente il bello del ciclismo, perché è una cosa popolare nel senso più bello del termine, non solo perché non spendi nulla, ma perché sei tutti uguali, tutti lì, un po' che si perde la testa per questi ragazzi che passano velocissimi, ci si passa il vino, ci si passa il salame e così si passa una giornata. Che bello. Allora, cioè, no, è veramente una delle, secondo me, delle passioni più belle da ritrovare. Dario, abbiamo detto che si parte dalla Liguria, quindi in questi giorni, 4 giorni, chi è in Liguria potrà andare a vedere il giro che passa. Poi cosa succederà? Ma poi si fa un giro così, che come dicevamo è più nordista che sudista, perché come al massimo che si arriva verso il sud è verso Benevento, e poi si risale. Quindi si va giù dalla Toscana, si fanno tutta la zona costiera, per poi ritornare su verso le Dolomiti, verso le grandi montagne, eccetera, eccetera. È un giro un po' particolare, perché come montagne ce ne sono veramente tante, sono 7 arrivi in salita. E poi c'è una cronometro che è importantissima, che è quella, credo che sia alla 7ª tappa, che è la Treviso Valdobbiadene, una 60 km a cronometro. Valdobbiadene, il posto. Beh, lì ci saranno dei grandi picnic e delle grandi bevute. Grandi bevute, sì. Lì è un tic-tac con le bollicine, no? Che vanno a tutto spiano. Però sarà uno spartiacque per questo Giro d'Italia, perché a 60 km a cronometro possono fare la differenza. E lì, diciamolo anche per gli appassionati, il grande favorito è Alberto Contador, lo spagnolo, che ha già vinto un Giro d'Italia, anzi ne avrebbe vinti due se uno non gli avessero tolto per questioni controverse di doping. E poi dopo c'è il nostro Fabio Aru, che è un sardo, che certo, sostituisce Nibali, perché Nibali correrà il Tour de France. E poi ci sono Agoberto Ure, aspetta un attimo, questo nome c'ha un nome difficile, sì, vabbè, noi adesso lo controlliamo come si chiama questo nome così e particolarmente poi, difficile. E niente, e questi qua sono i tre che e poi c'è anche un australiano, Richie Porte, che arriva molto favorito, nel senso che ha avuto una primavera in cui ha vinto molte corse, quindi si punta un po' su di lui, però in realtà il vero favorito è Alberto Contador. Vabbè, io comunque tifo per Aru. Gianni Bugno, qual è il tuo ricordo più bello del Giro d'Italia? Beh, ovviamente avendolo vinto nel 90, immagino che quello sia particolarmente nel tuo cuore, ma qual è il tuo ricordo più bello? Ma un ricordo più bello non esiste, sono tutti bei ricordi quelli che si vivono al Giro d'Italia. Secondo, in particolar modo, il pubblico, la gente che ti aspetta al bordo delle strade, sul bordo delle strade, l'inizio del Giro d'Italia in cui hai delle aspettative di vittoria, tutto quanto, insomma, sono tanti momenti molto belli che vanno vissuti momento per momento e riempiono sempre di una grossissima soddisfazione. Gianni, il Giro d'Italia lo senti quando arriva la primavera, quando arriva maggio, senti che scatta qualcosa in te, perché insomma ti senti questo Giro d'Italia dentro. Comunque, anche se non si corre più, l'aria del Giro d'Italia la senti ancora? Il profumo di giro lo senti? Profumo della primavera sicuramente. Ho un'altra cosa da chiederti, ma te la chiedo tra poco, anche a Dario Ceccarelli, perché sono le 15:15 minuti, quindi dobbiamo andare a sentire la situazione su strade e autostrade per chi sta viaggiando, magari per chi sta andando in Liguria a vedere il giro. Ci risentiamo tra pochissimo, ancora al Sabato del Villaggio. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme a parlare di Giro d'Italia con il nostro Dario Ceccarelli in studio, ma anche in collegamento con Gianni Bugno, campione, super campione, vincitore del Giro d'Italia. Io sono curiosa adesso di sapere, Gianni, come segui adesso il Giro, perché io so che tu adesso hai una prospettiva un po' dall'alto, non so se anche quest'anno, Gianni. No, adesso non lo seguo più dall'elicottero, lavoro sempre sul campo elicotteristico, però Giro d'Italia adesso lo seguo in televisione, oppure andando a vedere le tappe. Per esempio adesso sono qua al Giro a vedere la partenza, e quindi farò qualche altra puntatina nei prossimi giorni, e però diciamo che la guardo più in televisione che dal vero. Però com'è l'atmosfera lì alla partenza? Che sensazione ti dà? L'atmosfera di festa, c'è tanta gente, c'è tanto pubblico, sono qua alla partenza, adesso potrò vedere l'arrivo comunque. È una bella partenza, una bella partenza con questo inedito cronosquadra, fatto sulla ciclabile. La ciclabile ricavata appunto dalla ex ferrovia. È una strada molto bella, molto battuta dalla gente in settimana, la domenica, quindi hanno fatto un ottimo lavoro, quello sì. Che meraviglia. Dario, mi dicevi che Gianni Bugno è anche continua ad avere un ruolo particolarmente importante nel ciclismo. È presidente dell'Associazione Mondiale Corridori. Niente di meno. Per cui è stato leader in corsa e rimane leader. E io resto sempre una grandissima tifosa di Gianni Bugno, non solo perché, insomma, per i miei concittadini è sempre stato particolarmente importante. Poi un grandissimo personaggio, veramente un grande personaggio. Te lo farò conoscere personalmente. Grazie Dario. Grazie a Gianni Bugno per essere stato con noi. Buon giro allora. Grazie. A presto, alla prossima. A presto, allora lo aspettiamo in studio, Gianni Bugno. Sì. Dario, tu come lo seguirai questo giro? Vai a farti un giretto da ex suiveur. Ogni tanto mi concedo una tappa. No, perché adesso che ho imparato suiveur, te lo dirò sempre. Ogni tanto mi concedo una tappa che ha qualche significato particolare. Non so, c'era stata quella del Vaillant l'anno scorso, quando appunto si ricordava la tragedia del Vaillant, certo. Dove si passava da quella diga, che c'è ancora perché era crollata la montagna ma non era crollata la diga, e così non lo so, però quest'anno mi piacerebbe forse fare vedere una di quelle tappe in salita, magari in particolare il tappone Aprica Mortirolo, che quello, il Mortirolo è la salita della morte, no? Come si dice, no? E lì si potrebbero decidere molte cose, perché insomma farà la differenza, come potrebbe farlo anche sabato al Sestrer, dopo la salita del Colle delle Finestre, che è la cima Cuppi, 2178 metri. È il mondo che vedi il mondo dall'alto, ed è una salita molto particolare, e lì siamo al sabato, poi il giorno dopo c'è l'ultima tappa che da Torino porta a Milano. Anche questo non è casuale, nel senso che Torino è la città europea dello sport 2015, che si ricongiunge per la kermesse finale a Milano, metropoli di Expo 2015. Beh, straordinario. Quindi, cioè, in questo senso è pensato bene, nel senso che è un giro pensato per quello che l'Italia in questo momento sta cercando di fare, di mostrare, insomma, dopo anni che diciamo non abbiamo brillato. E anche nel ciclismo, quindi mi piacerebbe insomma ritrovare anche un campione italiano, perché forse il ciclismo italiano ha anche bisogno. Guarda, il ciclismo, noi abbiamo trovato questo Vincenzo Nibali, che ha vinto un Tour de France, ha vinto anche un Giro d'Italia, quest'anno ritorna al Tour per difendere la maglia gialla. Ci dispiace che non ci sia, perché è il nostro campione, ecco. Va detto che questo giovane sardo, questo detto tamburino sardo, perché è uno scricciolo, pesa 59 kg, che Fabio Aru, è uno che ha le stimmate del campione, nel senso che ha quella determinazione, quella rabbia agonistica, e anche però ha studiato al liceo classico, è uno che ha è un corridore particolare, non è il solito pane e salame del ciclismo, che no, è uno che sa il fatto suo, però in salita è fortissimo. Il problema è che forse è ancora un po' troppo presto perché per assumersi una responsabilità da capitano al posto di Nibali, però insomma l'anno scorso è arrivato terzo, potrebbe anche fare qualche una bella sorpresa. Io tiferò tantissimo e guarderò tantissimo il Giro d'Italia in TV per vedere i paesaggi, perché mi piace talmente tanto. È una bella corsa, è un bello spettacolo, e poi è vero, quando c'è aria di primavera si sente aria di giro. Si associa un fiore, il tulipano, perché proprio il Giro d'Italia lo trovi dovunque, no? Quando vai nelle campagne, è tutto punteggiato di fiori, di questi fiori, per cui io immediatamente associo. Ecco, un'altra cosa divertente del Giro d'Italia è il bagaglio, perché uno quando va al Giro d'Italia deve mettere dal costume da bagno alla giacca a vento, quella d'alta montagna. Sì, perché sono un sacco di chilometri, soprattutto prima di chiudere ti chiedo, Dario, quando tu seguivi tutto il Giro d'Italia intero, quanto tempo stavi via? Stavo via 25 giorni, perché tra una balla e l'altra, quindi il valigione era un incubo, me lo ricordo ancora, perché ogni volta prima di partire ti dovevi caricare di tutta sta roba. Infatti il buon suiveur si vede in queste cose, dalla logistica, perché trova sempre gli alberghi, i punti giusti, i ristoranti, dal bagaglio, e poi dalla capacità di mangiare bene, alimentarsi bene, perché alla lunga si cade lì. Lo sapevo. Dario, che belli i tuoi racconti del ciclismo, la passione per il ciclismo, al di là dei tecnicismi e delle questioni agonistiche che lasciamo a tutti i convocati, che lasciamo agli approfondimenti del GR e allo speciale tutte le mattine alle 7, noi ci divertiamo un po' a parlare di passioni. Grazie all'appassionatissimo Dario Ceccarelli di essere stato con noi. Grazie a te, Marta, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche perché Dario in radio questa mattina è arrivato alle 5:30, quindi sì, adesso ti lasciamo andare a riposare. Non volevo dirlo perché sembrava così di abusare della... No, ti lasciamo andare a riposare. Adesso dalla passione per le biciclette passiamo, vedi, a quella per il cibo, tra TV e, ovviamente, ancora una volta, Expo. Al suo arrivo in negozio, Knam assaggia dolci che non vorrebbe mai assaggiare. È una delle cose più orribili che ho mangiato negli ultimi 20 anni. E vede cose che non vorrebbe mai vedere. Sono frittelle, carne male dell'anno scorso. La situazione in laboratorio è critica e la tensione familiare è alle stelle. Cioè, a noi ci degradi del tutto? L'intervento di Knam sarà di quelli che non si scordano. È una vergogna, è una offesa verso la pasticceria. Lo abbiamo aspettato perché la scorsa settimana abbiamo avuto qualche problema a raggiungerlo, ma questa volta è qua, non ci scappa, anche perché io l'avevo promesso, un uomo dolcissimo, perlomeno per il mestiere che fa. Buongiorno Ernst Knam. Buongiorno, buona giornata. Ma gli esperti di dolci e di cioccolato sono anche uomini dolci? Non lo so, lo chiedo subito per togliermi la curiosità. E soprattutto quando si lavora con le fave di cacao, con cioccolato fondente e latte bianco, una persona, se non è dolce, può diventare solo dolce. Ernst, tu sei Expo Ambassador e sono molto curiosa di sapere che cosa rappresenta per te questo ruolo. Io penso che, a parte che sono molto fiero che mi hanno chiesto di prendere questo ruolo, perché sono l'unico pasticcere tra tutti i cuochi che abbiamo, per me è un onore, perché nel mio piccolo posso mostrare in questo ambito, in questi 6 mesi, al mondo cosa noi facciamo e cosa noi vogliamo anche. Questa idea di nutrire il pianeta come sottotitolo è molto importante, ma il problema è che la maggior parte delle persone dimenticano che il tutto inizia con il tempo. Le stagioni non ci sono più, automaticamente dove deve crescere il cibo non è più la stessa cosa. E tutto questo è una catena che alla fine finisce con le materie prime che noi dobbiamo utilizzare, e dall'altra parte nel mondo le persone non hanno abbastanza cibo, perché purtroppo il nostro pianeta sta cambiando. Hai parlato dell'importanza delle materie prime, è fondamentale per quanto riguarda i dolci, ad esempio la pasticceria? Non solo i dolci, la cucina parte tutta dalla materia prima. Se ho una materia prima di ottimo livello posso fare un ottimo dolce, ma se non sono capace posso anche rovinarlo. Ma da una materia prima di pessimo livello non posso tirare fuori un cavallo vincente, è impossibile. Ma è vero, che è vero che la pasticceria è l'arte più difficile in cucina? Se uno ha la passione, si applica, ha un po' di follia, non è così difficile come anche la cucina. Ogni arte, ogni mestiere ha le sue difficoltà e le sue cose più leggere. Ovviamente la pasticceria ha dei rigori ben precisi, perché io devo pensare veramente le ricette, non posso fare un po' lì, un po' là come in cucina. Poi dipende ovviamente anche da abilità del pasticcere, e questa uno può avere con l'esperienza e con tanto lavoro, mattina fino alla sera, sempre capire cosa succede prima, cosa succede nel forno, cosa succede con la temperatura. E se uno si allarga e si dedica completamente a questo mestiere, è un mestiere veramente meraviglioso. In televisione prima c'erano solo i cuochi, adesso anche grazie a te si sta diffondendo tanto la passione per la pasticceria. Dobbiamo non dimenticare che il piatto più importante di un menù è il dolce, perché è l'ultimo. Io con un ottimo dolce posso salvare una cena, io con un pessimo dolce posso rovinare una cena. Fa parte della cucina, e un cuoco dovrebbe saper fare i dolci, come un pasticcere per me dovrebbe saper cucinare. Purtroppo non è così, meno male, perché così noi pasticceri abbiamo tanto lavoro. Però è vero, sai, che io a volte ordino meno di quello che vorrei mangiare per tenermi, come si suol dire, lo spazio per il dolce. Se il dolce mi delude, la serata è rovinata. È così, purtroppo qui in Italia manca un po' di mestiere, anche perché lì abbiamo l'apprendistato come contratto, ma non come scuola, come succede in Germania, in Svizzera, Francia. E qui per me devono cambiare le cose, perché i giovani che vanno in scuola e poi vengono da noi e hanno un contratto di apprendistato, non, tante persone non li insegnano. In questo ci manca molto la cultura. Tu il venerdì sera, 23:05 su Real Time, vai a vedere il peggio in Che diavolo di pasticceria, vai a scoprire insomma quello che non va nelle pasticcerie. Ma come ti sembrano le pasticcerie italiane? Allora, la pasticceria italiana sicuramente è uno dei top nel mondo, perché se vediamo gli ultimi anni, campionato del mondo, gelateria abbiamo vinto, campionato del cioccolato abbiamo vinto, campionato pasticceria internazionale abbiamo vinto, ma ci sono pochi a questo livello. Ti aspettiamo con il nuovo Bake Off, ti aspettiamo con il re del cioccolato alla scuola, intanto ci divertiamo un po' con Che diavolo di pasticceria. Ernst, e un in bocca al lupo per la tua attività di Expo Ambassador, perché sono dei mesi molto molto molto intensi. Davvero grazie, Ernst Knamm. No, grazie a voi. Voglio dire, aggiungo una piccola cosa. Io sono stata all'inaugurazione dell'Expo e devo dire, quando ho camminato lì, devo dire, invito tutte le persone di andare all'Expo, perché veramente è meraviglioso quello che hanno creato qui, quello che ha creato Milano, e penso l'unico al mondo. È una cosa da brivido di pelle, dovete andare, vedere e annusare, è fantastico. Grazie Ernst, a presto. Grazie a voi, ciao, grazie, buona giornata. Il sabato del villaggio. Eccoci sempre con il sabato del villaggio, i liberi consigli per il vostro fine settimana. Non siate timidi, perché ci sono ancora delle coppie di biglietti per i concerti di Enrico Ruggeri. Ci sono ancora due date: Campione Teatro del Casinò 16 maggio, Roma Auditorium Parco della Musica 25 maggio. Mandateci un messaggio 349-238-6666, 349-238-6666. Scriveteci semplicemente il modo per contattarvi e noi ai più veloci manderemo le due coppie di biglietti per le due date di Enrico Ruggeri, Campione e Roma, 16 maggio, 25 maggio. Tra l'altro un concerto, io l'ho detto prima, l'ho visto a Milano, mi sono divertita tantissimo, bravo Enrico Ruggeri. Adesso però è il momento di parlare di tecnologia. Enrico Pagliarini è arrivato dalla sua botola, arriva sempre proprio in tempo, non so come faccia, e io lo introduco come sempre con semplicemente una canzone che mi piace. Questa volta ho scelto questa. Istantanee di secondi lunghi, quanto un anno bisestile. Quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. istantanee, lunghe come un anno bisestile, piace al Pagliarini? Ti sì, piace Tiziano Ferro? È una canzone italiana, abbiamo sempre delle canzoni. Eh beh, sono sempre a tema, però. Sì, sì, sono sempre a tema. Anche questa è istantanea. È istantanea. Ne ha fatta più di una, Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto, eh? Gli piace la fotografia, parliamo di fotografia, sì. Certo, ma perché parliamo di fotografia? Perché so che ti è venuto in mente perché hai fatto un giro, racconta sì, allora, Enrico. Questa mattina sono andato a visitare il villaggio dei makers di Confartigianato a Milano, che è un allestimento in via Tortona in occasione di Expo. Certo. Allora, i makers che cosa sono? Sono, diciamo che nascono soprattutto in ambito amatoriale, sfruttano la tecnologia che sta diventando sempre più a basso costo per una sorta di artigianato moderno digitale, quindi fanno cose che possono essere cose elettroniche, cose che si basano sulla stampa 3D, ad esempio. La stampa 3D sta diventando uno degli argomenti più dibattuti e anche più utilizzati da questo movimento dei makers. In questa installazione ci sono alcuni artigiani che presentano le loro innovazioni. Non sono tutti parenti dei makers, sono anche artigiani che facevano il formaggio e adesso lo vendono online. Quindi ci sono anche delle cose semplici. Non lo stampano sì, in 3D. Sì. Però ci sono alcune cose molto, molto belle e devo dire che uno passeggiando per questo villaggio, che non è immenso, però alcune idee sono interessanti, si stupisce sempre della genialità degli italiani. Io ho scoperto, lo dico anche se non c'entra nulla con l'argomento di oggi, una matita fatta completamente in grafite che viene fatta utilizzando materiale di scarto. Sono italiani, si chiama Perpetua questa matita, è molto bella e pare che abbia un grande successo in giro per il mondo. Viva gli italiani che fanno sì. Le cose, allora, e poi spesso nemmeno li conosciamo. Ah sì sì, ma io infatti non conoscevo questa matita molto bella. Che cosa ho scoperto questa mattina? Un nuovo modo per fare la statua di noi stessi. Allora, una volta i ricchi chiamavano lo scultore e si facevano fare la statua. Okay? Adesso è un po' più complicato. Adesso sì, diciamo che non va più di moda, non si fa più. Allora, però, sfruttando la stampa 3D, ho parlato con dei ragazzi di una società che si chiama Insta Twin. Mm-hmm. Non ho detto che era un giornalista, così non si sono messi nella versione parlo al giornalista, quindi gli devo raccontare tutto. Hai fatto il curioso. Sì, allora, che cosa fa? Fa una cosa che io ho visto fare ad alcune fiere, ma oggi è disponibile sul mercato. Non mi risultava, perché avevo visto cose in Germania, in Giappone, in altri paesi. Cosa succede? Molto semplice. Uno va nei punti vendita, c'è anche la versione a domicilio, però quella mi sa che costa un po' troppo. Allora, uno va in questi punti vendita, sono una decina già in Italia, tipicamente sono fotografi, questa è un po' un'evoluzione del mondo della fotografia, si diceva spesso che con la fotografia digitale i fotografi avrebbero chiuso, poi in realtà molti, certo alcuni hanno anche chiuso, ma molti si sono già riconvertiti o comunque hanno trovato nuove idee, questa è una nuova idea. Tu vai, in 5 minuti ti fanno una scansione con uno scanner particolare. Intanto sto guardando il sito. In 3D. È incredibile. Una scansione in 3D, quindi è uno strumento che va tenuto in mano da un operatore che ti gira attorno, oppure sei tu sopra una cosa che gira, ti fanno questa scansione del tuo corpo. La scansione viene mandata, inviata a una stampante 3D e dopo qualche ora ti viene spedita a casa, non è che devi aspettare qualche ora, ti viene spedita a casa una statuina. Allora, a questo punto la tecnologia della stampa 3D non permette di fare, o meglio, permette con installazioni molto costose, molto complesse, anche stampe di alcuni metri, però adesso la stampa 3D in formato semiprofessionale o casalingo permette di fare cose alte 10, 15, 20 allora, centimetri. Sto guardando anche quanto costano intanto. Sì, allora stiamo ancora in una fase in cui costano una follia. Posto che non so bene a cosa possa, perché uno allora, possa volere una sua statuina, io vedo fino a 9 centimetri, piccolina, sì, 169 sì. euro e esatto. Poi si sale fino a 279, 380, 400 fino a 420 euro. Sì. Sì, sì, certo, è una statuina piccolina. Allora, effettivamente uno dice ma a cosa serve? Sono belle, potrebbe però servire, guardo le foto, invece bellissime. Della fotografia uno si fa la statuina e dice guarda com'ero bello a 25 anni, guarda com'ero bello a 40 anni, ecco, potrebbe servire a questo. È comunque un'idea, è un'idea, e la cosa che mi ha stupito è che dalle fiere, perché fino a pochi mesi fa io vedevo queste cose alle fiere, si è arrivati oggi sul mercato a prezzi che sì, sono ancora abbastanza impegnativi, però non stiamo parlando di cose che costano delle follie. Però vorrei anche approfittare per ricordare ai nostri ascoltatori che oggi, al di là della stampa 3D e di farsi la statuina a colori, quindi siamo noi riprodotti in una statuina di 10 cm, 20 cm. Ecco, noi siamo abituati alle fotografie che ci teniamo spesso sugli smartphone, sui tablet, sul computer, però ci sono ancora tantissime persone che stampano. Certo. Ma devo dire che il mondo della stampa si è talmente evoluto negli ultimi anni che si può stampare pressoché di tutto, partendo da una foto che noi abbiamo scattato. Quindi noi facciamo una bella fotografia, possiamo fare una classica stampa nei formati fisici, quindi proprio la fotografia da tenere in mano. Anche perché tu hai detto che hai stampato un album per la tua mamma. Esatto, un po' di tempo fa. Ci sono delle cose fantastiche, bellissime, e questo è un po' un invito agli ascoltatori: prendetevi un po' di tempo e magari trovate un'idea, magari un filo conduttore, che non è detto che sia un viaggio, quindi tutte le foto di un viaggio, ma potrebbe anche essere, che ne so, tutte le foto ai monumenti che ho fatto in giro per l'Italia negli ultimi anni, tutte le foto che ho fatto ai bambini dei parenti, i miei bambini, eccetera eccetera. Ci sono oramai molti siti internet che permettono di fare, ad esempio, fotolibri meravigliosi, però bisogna prendersi un po' di tempo, perché bisogna mettersi lì, mettere le foto in un certo ordine, magari scrivere anche alcune cose, e ci viene recapitato a casa questo fotolibro bellissimo. Poi dipende da che tipo di carta scegliamo, dal formato che vogliamo, ma si può stampare un po' di tutto, dalle cover dei cellulari, che ne so, col nostro, certo, faccione, o col faccione delle persone a cui vogliamo bene. Sì. Oppure si possono stampare anche, se andate in pasticceria, io sono più per farsi le torte in casa, però se uno va in pasticceria è un bravo cuoco e fa anche le torte. Adesso, è bravo. Pagliello, diciamo, parola, agli ascoltatori, sì, sì. È bravo Enrico. Comunque io sposo molto l'idea di farsi le cose in casa, però se uno va in pasticceria saprà che le pasticcerie oramai propongono anche la fotografia stampata sulla torta. Certo, ci sono dei processi, certo, produttivi interessanti. Però poi si può stampare, vabbè, le magliette, ormai sono anni, sì, che si stampano le magliette, i cuscini, le tazze, le abbiamo. Però questo è un modo per dire che non dobbiamo abbandonarci solo al mondo digitale, perché il fascino delle cose stampate esiste ancora, anche per passarle ad un amico. Se io ho 100 foto e magari riesco a fare una bella selezione, faccio un bel fotolibro, posso prestarlo, e 100 foto invece spedite un po', è un po' meno affascinante, no? E mi piace, perché Enrico Pagliarini ha questo suo cotè analogico un po'. Sì, perché dobbiamo, sì. Insomma, comunque insomma, stamattina mi sono un po' appassionata, mi è piaciuta questa cosa. Io ti confesso che ho fatto stampare molte foto, perché io in camera da letto ho due mensole piene di foto, e sono un po' foto mie, perché vabbè, un po' di vanità per fare le foto, sì. E un po' di foto che ho scattato io appunto in giro per il mondo. No, ecco, sì. Molto belli sono anche i poster. Ci sono mille formati, mille tipi, stampa su tela, stampa su materiali più vari, quindi anche per un regalo potrebbe, se uno, non è detto che sia, debba essere bravo a fare la foto, però ogni tanto qualche foto bella ci salta fuori. Sì, ormai fuori. Devo dire che con i filtri a volte le foto sono fintamente belle, perché non sono quelle professionali, sì. Però qualcosa di piacevole, per esempio, viene un bel fuori. Regalo, visto che io in questo periodo devo pensare ad alcuni regali. Questa potrebbe essere anche un'idea per fare un regalo, una bella stampa in formato gigante, uno regala un bell'album, regala un bel quadro, un bel poster, e uno se lo mette in camera, e potrebbe essere questo un buon regalo. Enrico, poi prezzi ti do anche un compito a casa, sì. Perché la nostra amica Miria Tenucci, che è una nostra ascoltatrice molto carina, che ci ha scritto via Twitter, sì. Scrive ISDV on demand. Marta, puoi chiedere a Enrico se ci parla delle stampanti foto per smartphone Bluetooth? Quindi ti devi informare e poi saperci dire tutto su queste stampanti, perché effettivamente riassumere in un capitolo tutto quello che si può intanto dire. No, scusa, rido perché Raffaella Calandra, la nostra collega che sta ascoltando, mi scrive su Twitter @MartaCagnola, il nuovo must: mandare la propria statuina ai fidanzati lontani. Orrore. Beh, sì, se no si può fare anche una forma statuina di qualcuno per fare con gli spilloni. Sì, potrebbe essere una forma di dating: invece di mandarti la foto ti mando la statuina. Mamma mia, però che sborsare 150-200 euro. Sì, è un po', sì, no. Raffaella, è un po' costoso, solo per quello è un po' costoso. 15:45, ascoltiamo un po' la situazione delle strade, visto che insomma pieno weekend, la gente sta viaggiando, poi l'appuntamento con l'app scelta da Enrico Pagliarini per questa settimana. Adesso diamo la linea alle informazioni sul traffico. Il sabato del villaggio. The First Picture of You era una canzone dell'83, Lotus Eaters. Adesso dovremo fare la first statuetta in first, 3D of you. Sono impazzita per questa cosa delle statuette in 3D, perché le ho viste sul sito, sono bellissime. Sono una cosa totalmente inutile e inquietante, ma sono obiettivamente belle. Bisogna trovare un'utilità anche a questo, non lo so, però... Beh, sì, però dai, ci piace l'idea. Abbiamo 2 minuti per parlare. Nel campo della moda, ad esempio. Ah, certo. Uno potrebbe spedire un pacco di statuine delle modelle, no? Ma guarda, non so ci se sta senso, tutto, però. Ci sta tutto. Ma ci inventeremo una scusa per fare queste statuette invece delle foto. Enrico, app della settimana. Allora, questa settimana consigliamo, dopo una settimana di Expo, ricordiamo che però Expo va avanti per 6 mesi. E noi andremo avanti fino alle 18 a parlarne ogni tanto, sì, qualche allora, flash parliamo su Expo di Expo anche nell'app della settimana, perché Expo non poteva non avere la propria app. Allora, purtroppo è solo per iOS e Android. Chissà se ci sarà anche, visto che in Italia c'è un buon 14% di Windows Phone. E non è poco, che, che è uno dei paesi europei dove Windows, quindi i smartphone Lumia, hanno una buona penetrazione. E insomma, io se fossi stato in Expo avrei fatto... Un minuto, io sono qua a fare solo... No, perché ho alzato il ditino, era solo per dirti che abbiamo ancora un minuto. È molto semplice, direi che l'utilità maggiore dell'app è per preparare la visita prima, se siamo in movimento. Ah, ecco. Se siamo davanti al computer, direi che forse è meglio andare sul sito di Expo e guardarsi gli appuntamenti, le manifestazioni che sono previste magari nel giorno in cui vogliamo fare la visita. Però per preparare la visita prima di arrivare ad Expo o seguire quello che sta succedendo, perché c'è anche tutta la parte social, le notizie eccetera eccetera, può essere un buon modo per seguire Expo. Su Expo volevo dire che in 2024 abbiamo raccontato, grazie a Gianfranco Giardina che si è fatto quasi tutti i padiglioni, abbiamo raccontato come la tecnologia viene utilizzata per raccontare il tema principale di Expo: nutrire il pianeta, energia per la vita. Ne è nato un racconto bellissimo, perché alcuni paesi hanno avuto delle idee molto originali usando la tecnologia per raccontare, fare lo storytelling della podcast su radio24.it per riascoltare 2024. Grazie ciao. Enrico Pagliarini, ciao, è il momento di parlare di cinema. Sei il marito di Nina? Sì. Non sono uno stalker, voglio dire non in senso tradizionale. So del tuo incidente, non posso salvarti, a malapena salvo me stesso e mio figlio. Ma non te lo sto chiedendo. Signora, c'è un uomo di fuori. Se ne vada da casa mia. Se potessi fare a cambio lo farei, volevo dirlo. Un desiderio? Non mi viene in mente niente. Non importa. Partiamo con un titolo molto dolce per i film che sono in sala da questo fine settimana. Chissà se il film è dolce come il suo titolo. Buongiorno Franco D'Assisti, ciao Franco. Ciao Marta, ciao. Ma insomma, guarda, tanto dolce proprio poi alla fine non è, perché in realtà è una storia, diciamo, più amara che dolce, quella di Cake. Però effettivamente questa torta del titolo, oltre che far venire la collina in bocca, un po' lascia ben sperare. Devo dire che lascia ben sperare anche l'andamento del film e soprattutto la prestazione di Jennifer Aniston, che è un'attrice che forse ha pagato oltre misura la sua provenienza televisiva seriale dentro nel grande cinema, ma che negli anni poi ha dimostrato, a mio modo di vedere, di avere dei talenti da spendere anche in ruoli un po' più drammatici come questo, nei panni di una donna che è, diciamo, malata di depressione sostanzialmente, che frequenta questi gruppi di supporto per tentare di uscirne, ma che invece precipita ulteriormente dentro il disagio dopo il suicidio di una compagna di questo corso, diciamo. Però la cosa bella del film di Daniel Barth è quella che non si indugia troppo in questo aspetto, come dire, così drammatico, ma si tenta di costruire anche attorno al personaggio di Jennifer Aniston momenti anche agrodolci, tragicomici, il tentativo di ritrovare l'amore, il tentativo però anche la paura di non riuscirci e quindi la fuga da questi nuovi amori. Ecco, è un film, una dramedy, come viene definita, un po' dramma, un po' commedia, che però per chi ha amato l'ex ragazza dei telefilm americani è sicuramente indicato. In questi casi si dice voltiamo pagina, perché ti voglio chiedere qualcosa di un film completamente diverso. Sta per partire la nuova edizione di Cannes e finalmente adesso esce in sala un film che era andato molto bene a Cannes l'anno scorso, Forza Maggiore. Forza Maggiore è davvero un film molto molto molto interessante, devo dire, insieme forse a Leviathan, di cui parleremo fra poco, è sicuramente il consiglio della settimana. Il plot è totalmente fuorviante, cioè si parla di una famiglia svedese che è in vacanza sulle Alpi francesi, in una bella località. A un certo punto, mentre tutto sembra volgere al meglio, il sole, una bevanda con gli amici, dalla cima della montagna si stacca una valanga che sta per abbattersi proprio su questo villaggio. Lì il film cambia completamente, uno si aspetta magari un film catastrofista, e invece la catastrofe è quella interiore dei protagonisti, perché questa famiglia ha delle reazioni che io non vi racconterò, ma che ha delle reazioni, diciamo, diverse, padre, madre, rispetto anche alla tutela dei bambini, e tutto questo avrà una ripercussione, perché la valanga, questo succede nei primissimi minuti, quindi non spoileriamo niente, la valanga si ferma, quello che non si ferma è la valutazione, il giudizio, la valanga interiore, proprio in quello che marito e moglie praticamente si addossano l'un l'altro come comportamento in quella situazione così estrema. Franco, hai citato anche questo Leviathan, che è un film russo. Sì, è un film russo che ha fatto incetta di premi quest'anno, Golden Globe per il miglior film straniero, premio a Cannes per la migliore sceneggiatura, un film che è assolutamente un affresco del potere russo nella Russia contemporanea. Qualcuno lo ha sinteticamente definito un film contro Putin, insomma, non andando troppo lontano, racconta di un meccanico che vive in un piccolissimo villaggio dell'estremo nord della Russia, sul mare del nord, un posto incantevole sotto il profilo paesaggistico, ma insomma molto molto isolato, e la casa che si è costruito di fianco all'officina con le sue mani e dove vive con la giovane moglie comincia a entrare nelle mire dello Stato, che la vuole espropriare per farci un'opera pubblica. All'inizio tutto avviene in maniera abbastanza pacata, poi piano piano il potere, che ha le sembianze del sindaco del paese, prende il sopravvento e comincia a diventare molto più aggressivo. È un film che si presta ovviamente a una lettura che è quella della storia in sé, ma anche a una lettura più ampia, che è quella di una Russia dove l'uscita dal comunismo, l'uscita dal socialismo reale non ha avuto, e sebbene ormai siano passati più di 20 anni, non ha avuto nella democrazia lo sfogo naturale, ma ancora più nell'oligarchia forse in questo momento, e questo è il momento che il regista Andrei Zagintsev, che tra l'altro fu Leone d'Oro a Venezia nel 2003 con il suo film d'esordio Il Ritorno, vuole indagare. Concludiamo con un'uscita italiana. C'è qualcosa di italiano, Franco, questo fine settimana? Sì, c'è un film che arriva in sala dopo 2 anni dalla sua produzione. Ve lo segnalo lo stesso, questo La Voce, si intitola La Voce, lo dirige Augusto Zucchi, perché è un tentativo, diciamolo subito, non riuscito perfettamente, anzi abbastanza mal riuscito, però di fare un film con degli ingredienti che in mano al miglior cinema americano sarebbero stati importanti per costruire invece un film di cassetta. La Voce racconta la storia di un imitatore, di grande talento, impersonato da Rocco Papaleo, che però non è mai riuscito ad andare oltre il livello dei nightclub, di un sottobosco, diciamo, artistico, che non è mai sfociato in un successo, in una popolarità più ampia. Però il suo talento non lascia indifferenti i servizi segreti, che gli chiedono di imitare alcune voci di potenti in alcune telefonate che devono poi servire a far andare alcune indagini indagini come vogliono loro. Grazie Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ci sentiamo assolutamente per approfondire questi altri temi, giocare insieme come sempre, vi vincere tanti premi, per cui vi aspetto. Grazie Franco, al prossimo sabato. Ciao Marta. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il sabato del villaggio. Ed eccoci insieme con la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa, come sempre, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Allora, una buona notizia, ve l'ho già detto, ci sono ancora a disposizione alcune coppie di biglietti per il tour di Ruggeri, ve lo dico ancora una volta, data di Campione, Teatro del Casinò, 16 maggio, data di Roma, Auditorium Parco della Musica, 25 maggio, mandateci un sms al 349-238-6666. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Torneremo in clima di Expo con gli eventi a Milano, al Piccolo Teatro arriva Mario Martone. I libri, parliamo di due volumi che stanno dominando le classifiche, parliamo anche proprio di Milano, il do it yourself, ma anche i matrimoni sponsorizzati nell'appuntamento con le nuove tendenze, ma prima basta il nome, Luciano Ligabue. Siamo qui, già le quattro e siamo qui, finestrini sono chiusi su strade indifese dai nostri pesanti HP. Avventurosi, inaspettati e appaganti, così Luciano Ligabue ha raccontato i suoi 25 anni di carriera, ha convocato i suoi amici e chi ha scritto di lui negli anni nella pista deserta, silenziosa, di notte a Campovolo, luogo mitico per i suoi fan. Ha suonato, si è raccontato, noi lo abbiamo incontrato per parlare dei festeggiamenti 19 settembre, il terzo Campovolo, e in quel giorno come festeggerà i suoi 25 anni di carriera? Li festeggio in maniera soprattutto musicale, nel senso che sono 25 anni di carriera e quindi per forza anche dall'uscita del mio primo album, sono 20 anni dall'uscita di Buon Compleanno Elvis, sono 10 anni dal mio primo Campovolo, quindi sono tutte, diciamo così, le condizioni per poter fare una festa in cui da un punto di vista musicale riproporre intanto questi due album, e così faremo, nel senso che suonerò integralmente questi due album con i rispettivi gruppi con cui li ho realizzati e poi farò, diciamo così, una capatina nel resto del repertorio dei 20 anni successivi a Buon Compleanno Elvis fino ad oggi con il gruppo attuale. Come definiresti adesso questi 25 anni in una frase? A questo punto mi azzarderei di usare "questa è la mia vita", cioè nel senso che tra parentesi, per caso e per fortuna. In questi 25 anni, se dovessi scegliere dei momenti che ti hanno fatto crescere, nel bene e nel male, delle svolte, degli scivoloni? Allora, il primo episodio è stato sicuramente antecedente ai 25 anni, è stata la mia prima esibizione in pubblico. Avevo 27 anni, è stato il mio primo concerto in assoluto ed è stato quello che l'esperienza che mi ha fatto decidere di voler fare a tutti i costi questo mestiere per risalire su un palco il più spesso possibile. Era il febbraio dell'87. Un altro episodio è stato nel 90, quando ho fatto il mio primo concerto fuori dalla provincia di Reggio Emilia. Ero da Alessandria, era un posto, una tensostruttura, c'era un migliaio di persone addirittura. E inaspettatamente il mio primo album è uscito da poco, ma buona parte di queste persone sapevano tutte le canzoni a memoria, quindi un altro momento, diciamo così, di svolta rispetto alla mia carriera. Per quello che riguarda gli scivoloni, insomma, ma quelli li avete visti un po' anche voi, insomma, sono stati momenti anche di incomprensione, cioè incapacità di comunicare bene anche le cose. In questi 25 anni sono stati anche necessari, e meno male che sono anche arrivati quindi anche loro. Hai usato un aggettivo molto pesante, sono un uomo appagato, è un aggettivo importante? Sì, però non è pesante, è leggero. Guarda, io nel dire che mi sento appagato mi alleggerisco anche un po', nel senso che so che è difficile da usare quell'aggettivo, però è veramente la mia condizione. Io sto bene, mi sento grato con chiunque mi abbia messo nella condizione di stare come sto adesso, e soprattutto godo ancora oggi della possibilità di vedere sotto di me su un palco la gratitudine di chi è lì. Cioè io ancora oggi so che la gratitudine è un, diciamo così, è un sentimento molto importante, perché fa star bene non solo chi riceve quel grazie ma anche chi lo esprime, ma lo so soprattutto grazie a loro, perché comunque sono riusciti non solo a farmi avere l'affetto in tutti questi anni, ma a farmi avere sempre questa sensazione di gratitudine nei miei confronti. E quindi loro che dicono che io in qualche modo gli ho insegnato alcune cose della vita, invece dovrebbero capire che ne hanno insegnate forse più loro a me che io a loro, e quindi a maggior ragione abbiamo motivi per festeggiare il 19 settembre. Siamo a Campovolo, lo hai scelto per la terza volta per un grande evento. Che importanza ha per te Campovolo? Campovolo avete visto anche voi, no? È un posto in cui non c'è niente se non un paio di piste di rollaggio, di decollo per alcuni monoposti, e tutto il resto è una specie di enorme campo di patate, in cui per fare concerti devi portare fino all'ultimo bullone, quindi in realtà bisogna inventarsi di fare concerti qua dentro. Però meno male che l'abbiamo fatto la prima volta 10 anni fa, perché intanto Campovolo ha un nome secondo me meraviglioso, cioè che ha a che fare con il senso della terra che io comunque ho. Io sono uno che vive da sempre con la campagna lì, a portata di mano, e d'altro canto mi piace l'idea che ci sia questa immagine di un volo possibile, cioè di una voglia di provare a decollare comunque, e d'altro canto molto semplicemente è Campovolo è casa mia, cioè vuol dire è questo posto, fortunatamente è un posto qui a Reggio Emilia dove per me è più facile pensare di poter fare le feste in cui invitare per l'appunto a casa mia chi ha voglia di festeggiare con me. Ma tu in questi 25 anni come ti senti cambiato? Io non riesco a vedere i miei cambiamenti se non allo specchio, perché quelli sono evidenti, perché non ci riuscite neanche voi, cioè ognuno di noi vive con se stesso, quindi non riesce a capire che ogni giorno cambia un po'. Però so di essere cambiato, perché è inevitabile che questo sia così, e so anche che quello è il movimento naturale dell'universo, e credo sia anche sano che sia così. Spero semplicemente che sia un cambiamento, non per forza in peggio. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta il sabato del villaggio. E qui al sabato del villaggio adesso è il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Alessandra, potremmo fare un quiz su questa musica. Credo che indovinerebbero tutti. Vabbè, noi abbiamo già le cuffie. Non so se gli ascoltatori vogliono mettersi una cuffia e facciamo delle domande su questa musica. Beh, io direi che visti i dati di ascolto delle prime visioni, delle repliche, delle repliche, l'hanno visto tutti. Di cosa cosa parliamo, Alessandra Tedesco? Buongiorno Alessandra. Eh beh, ovviamente parliamo di Montalbano, perché è uno dei libri di cui si sta parlando tantissimo proprio negli ultimi giorni, perché appena uscito è arrivato subito in vetta alla classifica l'ultima puntata, naturalmente, di Montalbano, Andrea Camilleri. Si intitola La giostra degli scambi ed è stato pubblicato, come tutti gli altri Montalbano, da Sellerio. Questa volta che cosa deve fare il nostro Montalbano? Allora, Montalbano si sente un po' vecchio. Beh, capita anche a Montalbano. Sì, si sente un pochino così, un po' stanco. Sai quando ti svegli la mattina, ti succedono tutte le cose storte? Mi viene in mente quella canzone, cos'era, Nina Zilli, uno di quei giorni che vanno storti. E però deve comunque lavorare, a Vigata naturalmente, e si trova ad avere a che fare con due sequestri lampo di due ragazze. La cosa che mette in comune, diciamo, lega queste due ragazze è che hanno la stessa età e che lavorano in banca. Questo è tutto quello che vi possiamo dire. Quindi naturalmente l'ultimo romanzo di Andrea Camilleri, Montalbano, La giostra degli scambi, è sicuramente uno dei libri di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni ed è consigliato. Infatti stavo pensando a chi si può consigliare, a parte a tutti, perché... A parte a tutti, perché insomma Camilleri e Montalbano sono universali, però sicuramente... Ma che lo dico a fare i fan di Montalbano? Lo sanno prima di me! L'hanno già comprato. Erano fuori dalle librerie a far la fila. A far la fila come si faceva per Harry Potter, no? E quindi secondo me, sicuramente ai fan di Montalbano, però così se volete provare... Leggetevi un Montalbano, un Camilleri Montalbano. Io sono sempre dell'idea che mi sono più innamorata dei Camilleri non Montalbano che dei Camilleri Montalbano, ma io sono anomala, si sa. Quindi se volete leggervi un Montalbano qualsiasi, magari quest'ultimo. Altri libri di cui si parla. So che singolarmente si parla moltissimo di un libro in realtà per ragazzi. Abbiamo anticipato il fenomeno Masha e Orso, che sta dominando le classifiche. Non stiamo parlando questa volta di bambini, ma di ragazzi forse un po' più grandicelli. Certo che c'è un altro libro destinato ai più giovani che sta scalando le classifiche. Sandra, dunque, di cosa si tratta? Se io ti dico Percy Jackson, tu cosa pensi? Io, guarda, te la dico proprio tutta intera e dico Percy Jackson, gli dei dell'Olimpo. Ah, vedi che sei preparata! Io invece ero meno preparata, però ho detto, caspita, si sta parlando tanto di questo libro, voglio sapere qualcosa di più. Ma io sono un po' influenzata dal cinema, però. Tu sei influenzata dal cinema perché naturalmente era uscito il film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Allora, iniziamo a dire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una saga fantasy, il fantasy per eccellenza, con un po' di mystery, con un po' di mistero. È ambientata in America, negli Stati Uniti, a New York, nei giorni nostri, ma i protagonisti sono personaggi della mitologia, sia greca che romana. Quindi c'è stata prima la saga di Percy Jackson, che è il protagonista. Adesso c'è la saga di gli eroi dell'Olimpo, che è sempre, di cui è protagonista sempre questo Percy Jackson, che è arrivato al quinto volume in Italia e si intitola Il sangue dell'Olimpo. Anche a questo libro se ne parla tantissimo, anche perché ha un pubblico trasversale, diciamo che è consigliato per i bambini dagli 11 ai 13 anni, per i ragazzini di questa fascia, però ha un pubblico trasversale perché lo leggono anche ragazzi più grandi, adulti e così via. Su quest'ultimo libro in particolare, Eroi dell'Olimpo, Il sangue dell'Olimpo, ti posso raccontare una storiella curiosa che riguarda la copertina. Allora, cosa ha fatto la Mondadori, che l'ha pubblicato in Italia? Ha fatto un contest su Facebook e ha chiesto ai fan di scegliere copertina e titolo di questo quinto volume. Aveva ipotizzato due titoli, cioè la traduzione dall'inglese, quindi Il sangue dell'Olimpo, e poi La fine degli dèi. Ha vinto Il sangue dell'Olimpo. I ragazzi sono tradizionali, sono fedeli, alla versione originale. Per quanto riguarda la copertina, erano state proposte appunto due ipotesi, e ti dico che su 2000 persone persone che hanno partecipato a questo contest, la copertina che poi è stata realmente pubblicata ha ricevuto 1700 like, quindi la maggior parte aveva scelto questa copertina. Tra l'altro la pagina Facebook italiana di questo Percy Jackson, l'idea dell'Olimpo, cioè, ha quasi 240.000 follower. Bello, ragazzi che leggono, mi piacciono moltissimo. Beh, quindi lo consigliamo ai ragazzi ma anche ai genitori, perché così possono anche leggere lo stesso libro e confrontarsi. Questo sicuramente sì, quindi diciamo consigliato per chi ha bambini, ragazzini dagli 11 anni in su. Considerate che c'è molta mitologia, il personaggio, il protagonista è questo Percy, è un semidio che è accompagnato da altri 6 semidei, quindi ci sono delle avventure, devono combattere in questa saga contro la nemica Gea, che è la madre dei titani. I giganti, cattivissimi. Beh, così si impara anche un po' di mitologia. Sì, sì, infatti. Beh, è anche un po' didattico, diciamo, il libro. È scritto in modo molto ironico e scanzonato, naturalmente piace molto ai ragazzi. Dai consigli per ragazzi e non solo, io ti chiederei dei consigli invece per i torinesi, o perlomeno per chi vorrà andare a Torino la prossima settimana, perché ci siamo. Sì, ci siamo perché c'è il Salone Internazionale del Libro dal 14 al 18 maggio al Lingotto di Torino. Programma ricchissimo, ne parlo anche stasera nel Cacciatore di Libri alle 22, e io mi sono segnata delle cose, così ho detto io questi gli imperdibili, intanto imperdibili. Di e per Alessandra Tedesco, anche perché così sappiamo che il prossimo sabato, nel Sabato del Villaggio, sarò là, esatto, sapremo qualcosa. Ti parlerò del Lingotto di Torino. Vabbè, ovviamente c'è il mio amato Emmanuel Carrère, ne abbiamo parlato, sì. Scrittore francese, l'autore de Il Regno, che va a Torino per ritirare un premio, il premio Mondello, quindi insomma chiacchiererà ancora con il suo pubblico, io quello non me lo perdo. Sono molto curiosa di ascoltare questa scrittrice francese, la De Kerangal, perché il suo romanzo Riparare i viventi, un romanzo molto drammatico su un trapianto di cuore eccetera, ha avuto un successo straordinario. Ho iniziato a leggerlo proprio in questi giorni e ti devo dire che già dall'inizio mi sembra molto molto appetibile. Poi mi fa simpatia Bjorn Larsson, che è praticamente lo scrittore svedese che parla italiano perfettamente. Quindi è innamorato dell'Italia, parla sempre dell'Italia, parla un ottimo italiano. E giusto per rimanere nell'ambito Svezia, e in questo caso giallo Svezia, Bjorn Larsson invece non fa gialli, c'è Camilla Läckberg, che è una delle regine appunto del giallo svedese, e vale la pena secondo me ascoltarla. L'ultima segnalazione te la faccio su un'altra mia amata, che è Jhumpa Lahiri, questa scrittrice di origine indiana che in realtà ha vissuto negli Stati Uniti e che negli ultimi 3 anni ha vissuto a Roma e adesso ha scritto anche un libro in italiano. Io consiglierei di Jhumpa Lahiri quello che vinse il Pulitzer, era una raccolta di racconti, vado a memoria, che si intitolava L'interprete dei malanni, all'epoca pubblicata da Marcos y Marcos. Che bel giro del mondo ci hai fatto fare, e quindi tra giri del mondo ci troviamo anche a Expo, perché Spazio Expo inevitabile. Dovremmo fare una sigletta Spazio Expo. Consigliaci qualcosa in tema, non so, Expo Milano, che cosa, di cosa ci parli, Alessandra? Allora, ti ho portato un libro che ha scritto Stefano Bartezzaghi, adorato Stefano, ciao Stefano, che si intitola M, una metronovela, perché è pubblicato da Einaudi, perché ci fa conoscere Milano, quindi la città dell'Expo, per chiunque insomma dovesse venire nei prossimi 6 mesi a Milano, attraverso alcune fermate della metropolitana. Lui intreccia storie personali, ricordi personali, a sensazioni che ha andando in alcune fermate della metropolitana di Milano, non naturalmente tutte perché sarebbe impossibile, quindi si scopre una città diversa, particolare, raccontata con lo stile di Bartezzaghi. Inconfondibile. Altre segnalazioni per concludere? Beh, sempre riguardo all'Expo Milano, una versione, come dire, privé di Milano. Non stiamo facendo cose. Siamo ancora alle 50 sfumature. No. Perché qui giochiamo in casa, perché la rivista pubblicata dal gruppo Sole 24 Ore, How to Spend It, che ora è in edicola, ha in copertina Giorgio Armani col caschetto mentre sta lavorando, uh-huh. E ha dentro tutto il lato privé di Expo, quindi le cose, come dire, che possono fare le persone più chic. Vabbè, mi piace, okay. Io guardo How to Spend It e sogno, quindi cosa posso sognare guardando le fotografie? Guarda, allora c'è la possibilità di fare delle visite ai musei fuori orario, Per me, per te forse no, però insomma qualcun altro se lo può permettere. Qualche soldino, sì. Poi naturalmente lo shopping d'autore, poi c'è chi ha, ci sono degli ingressi riservati a determinate case, palazzi. Insomma, in questo articolo di How to Spend It si scoprono molte cose della Milano chic, della Milano privé, dell'Expo visto con gli occhi di un inviato speciale. Bellissimo, qualcosa di molto esclusivo che noi almeno possiamo sognare. Alessandra, invece l'appuntamento con il cacciatore di libri? Sempre alle 22 di ogni sabato. Adesso inventerò una canzoncina alle 6:30 del mattino e alle 22 del sabato. E c'è sempre il podcast Radio24.it. Grazie Alessandra Tedesco, a sabato prossimo. Il sabato del villaggio. Rieccoci con la seconda mezz'ora della seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Ho detto la seconda mezz'ora della seconda ora perché la terza ora, dalle 17 alle 18, è quella del nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ve lo dico per l'ultima volta, allora, per le coppie di biglietti che abbiamo a disposizione per le ultime due date del tour di Enrico Ruggeri, 16 maggio, lo voglio dire bene, 16 maggio, Campione, Teatro del Casinò, 25 maggio, Roma, Auditorium, Parco della Musica, basta un sms con i vostri dati, i primi avranno queste coppie di biglietti, 349-238-6666, 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, ma come sempre c'è anche un metodo molto comodo per contattarci se invece volete farci sentire la vostra presenza qui al Sabato del Villaggio. Twitter, il mio account è @MartaCagnola e l'hashtag è ISDV. Tra l'altro abbiamo parlato di statuine in 3D fatte con la stampante 3D. Ci chiedevamo quale potesse essere l'utilità. Ne abbiamo parlato con Enrico Pagliarini. Ho molto riso durante la pausa perché ho letto il tweet di Simone Stenti che dice che le statuine dei calciatori affosseranno quelle della Palini, quelle da attaccare. Effettivamente le statuine in 3D dei calciatori forse potrebbero avere un loro mercato. Vabbè, insomma, potrebbero rappresentare una nuova tendenza. Quindi, qui al Sabato del Villaggio è arrivato il momento di parlare di consumi. È il momento di capire cosa c'è di nuovo allora sul fronte dei consumi e delle nuove tendenze. Come sempre con noi al Sabato del Villaggio Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho capito, ho intuito che stiamo per parlare di fai da te, di qualcosa che insomma si fa con le proprie mani? Esatto, di fatto a mano, di do it yourself, si usa dire adesso. È una tendenza che in verità detta legge ormai da qualche anno. Dal lavoro a maglia, il knitting, all'uncinetto. So che tu, Marta, hai una predilezione. Sì, io sono per il punto croce. Ah, ecco, è vero, è vero. Poi il decoupage, il bricolage, l'upcycling. Sai cos'è l'upcycling? Sono pronta a impararlo. Allora, è il riciclaggio artistico. Non solo non buttare le cose vecchie, ma trasformarle in qualcosa di nuovo. Bello. Quindi cambiandone proprio anche la destinazione d'uso, insomma, in modo molto creativo, molto artistico. Inutile dirlo, migliaia di blog, tutorial, profili sui social, poi programmi TV, fiere di settore, mostre, insomma, tantissimo da dire in questo settore, però non vogliamo vogliamo parlare di questo in particolare, ma di come per molti sia già diventata una fonte di guadagno, una fonte di reddito integrativo. Quindi l'hobby, la passione per la creatività, declinata in qualsiasi modo si voglia, che diventa appunto un'occasione anche per fare qualche soldino, ovviamente come con le piattaforme online, certo, dedicate proprio al mondo del fai da te e dell'artigianato, quindi per comprare e per vendere questa tipologia di prodotti. Iniziamo dal numero uno, che è Etsy. Io ogni tanto curioso sulla app e ho fatto anche un paio di acquisti. Esatto, Etsy.com, la piattaforma americana di e-commerce per i prodotti artigianali, c'è anche la versione italiana, si viene indirizzati subito lì. Qualche numero per dare l'idea del fenomeno, Marta, e delle dimensioni. Nato nel 2005, Etsy oggi conta, questi sono i dati che ho recuperato di fine 2014, 54 milioni di utenti, quasi 20 milioni di clienti. Tra l'altro è un'impresa socialmente responsabile, ha fatto fin dall'inizio della sostenibilità la propria bandiera, è una cosiddetta B Corp, che sta per Benefit Corporation, quindi un'azienda socialmente utile. Poi c'è littlemarket.it, la versione italiana di una piattaforma nata in Francia e nel 2014 è stata acquistata da Etsy, però le due piattaforme sono rimaste comunque separate. Il concorrente europeo di Etsy è Dawanda, si dice Dawanda perché è un termine africano, uh-huh, che significa l'unica. In italiano in realtà, Marta, dimmi se sbaglio, sarebbe bellissimo Dawanda. Dawanda, certo, sarebbe perfetto. Per prodotti di questo genere, certo, sarebbe una bella, un negozio, una vecchia merceria, esatto, perfetto, sarebbe straordinario. Però la piattaforma è di origine tedesca, quindi in realtà non c'entra assolutamente nulla. È nata a Berlino nel 2006, ha superato ormai i 5 milioni di utenti. Ilaria Contrastini è la Country Manager Italia di Dawanda, l'abbiamo incontrata recentemente, ecco che cosa ci ha raccontato. Numeri molto interessanti, abbiamo superato i 2 milioni di pagine viste, abbiamo tantissimi nuovi designer e la crescita anno su anno è del 150%. Che tipo di prodotti si trovano su Dawanda? Su Dawanda si trova di tutto, dall'abbigliamento alla cancelleria, ma devo dirvi che la categoria più forte in questo momento sono i gioielli, bijou di tutti i tipi. E i designer, le designer chi sono? Avete un profilo tipo? Il profilo tipo devo dire che mi ha stupito perché in Italia non c'è. Tendenzialmente il nostro target sono creativi donna, ma in Italia abbiamo un buon equilibrio tra uomo e donna. Sono più o meno tra i 30 e i 35 anni e persone che lo fanno di mestiere. Quindi una conferma per il homemade come tendenza fortissima di mercato? Assolutamente, l'artigianato è per noi la parola chiave. Nel nostro paese è fondamentale riscoprirlo ed è anche uno opportunità di lavoro e in questi tempi è importante riscoprirlo. Un bel consiglio anche per reinventarsi un lavoro. E poi sono però come sempre curioso anche dei nostri consigli anticrisi. Cosa ci hai preparato questa settimana, Maria Luisa? Innanzitutto una clip per introdurre l'argomento. Tipico mercoledì, a bighellonare con vecchi amici come Stanford Blatch e nuovi amici come Vera Wang. Sembra a casa sua per una che non credeva di avere il gene della sposa. Beh, credo che con l'uomo giusto. E l'abito giusto. E quando mi sposerò io avrò qualcosa del genere. Sono più grande. Sì, fantastico. E Carolina Herrera. Vera Wang, Carolina Herrera. Allora, questo film, come tutte le stagioni di Sex and the City, è sempre una miniera per le citazioni. Assolutamente. Questa volta matrimonio? Matrimonio sponsorizzato, come risparmiare sul matrimonio. Beh, dopo tutto anche Carrie si faceva il servizio fotografico, quindi era un po' un'antesignana. Sì, fatto un po' il precursore, sì. Ha anticipato la tendenza che adesso ci aiuta ad esplorare come sempre la nostra Cristina Lazzati, direttrice di Markup e Gidio Week. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Cristina. Allora, che cosa ci puoi raccontare di questi matrimoni sponsorizzati? Allora, siamo a maggio, mese delle spose, quindi abbiamo detto, ma perché non parlare di come oggi ci si possa organizzare un matrimonio senza spendere molto, o meglio ancora, senza spendere nulla. I matrimoni sponsorizzati sono nati qualche anno fa dall'idea comunque di due persone, una coppia che voleva a tutti i costi sposarsi, ma nello stesso tempo non voleva rinunciare né alla festa né all'abito da sposa, però non avevano tanti soldi. Poi sono nati nel frattempo una serie di siti e di consigli per far fronte a queste spese. Fate conto, sono andato a vedere su matrimonio.it, che è poi un sito dove mettono consigli eccetera, non solo per i matrimoni sponsorizzati ma anche per altre cose, che mediamente un matrimonio con 100 invitati costa da un minimo di 12.000 euro, di cui 1.000 sono l'abito da sposa, a un massimo di 75.000 euro, di cui 12.000 sono l'abito della sposa. Non male. Allora, diciamo che comunque un mutuo, almeno sui 75.000, non lo toglie a nessuno. Allora, a meno che uno non lo vinca con la puntata della settimana scorsa giocando con Lidl, in linea di massima dobbiamo organizzarci. Quindi ci sono molte possibilità. Che cosa significa gli sponsor? Significa trovare una serie di produttori di abiti da sposa, piuttosto che stampatori di bigliettini d'invito, piuttosto che bomboniere e quant'altro, che siano disponibili a regalarci o a farci un grande sconto sui loro prodotti, in cambio noi gli diamo pubblicità. E come si fa delle pubblicità? Beh, innanzitutto aprendo un blog. Quindi il blog è essenziale, quindi se si fa un blog hanno dei nomi, peraltro come dire, ci sposiamo con lo sponsor.it, sposiamoci risparmiando.it, e sono di fatto poi dei racconti, dei blog di chi decide dal momento, un anno bisogna pensare prima, e cominciare a raccontare la propria storia d'amore, insomma fare un piano di marketing vero e proprio in cui la nostra storia dal momento in cui ci siamo conosciuti al momento in cui ci sposeremo diventi un'attrazione per un numero di utenti sempre più elevati. Ci stanno benissimo i social network, la pagina di Facebook, quindi tutto questo sforzo finalizzato a arrivare quel giorno con gli invitati seduti a tavola davanti a un meraviglioso catering, possibilmente la location pagata e sicuramente le bomboniere. Vi faccio l'esempio, secondo me è carinissimo, uno dei più recenti di Chiara e Maurizio, che hanno fatto il matrimonio Disney. Beh, un'idea singolare, ma devo dirti però che, Cristina, ho l'impressione che bisogna avere un certo talento per spuntare una sponsorizzazione, perché anche il blog deve essere bello, visitato, è un lavoro anche quello, Bravissima, hai perfettamente ragione, perché proprio sconsigliano chiunque si metta, apra un blog e poi lo lasci lì, esattamente come chiunque apre il blog e poi decide che vuole la privacy. Allora il matrimonio sponsorizzato è tutto tranne che privato, perché deve essere anzi raccontato ai 420, ovviamente, perché altrimenti lo sponsor che ti sponsorizza a fare se lo racconta solo a te. Certo, ci si mette in vetrina a tutti gli effetti con uno storytelling degno di Coca-Cola, insomma. Bravissima, diciamo che dobbiamo tirar fuori, non ci vuole un esperto di marketing, però sicuramente ci vuole un po' di buona volontà, la capacità anche di scrivere, di raccontarsi, tante foto, perché poi anche il matrimonio andrà poi, come dire, portato avanti su Facebook eccetera, con le foto dei preparativi, l'arrivo delle bomboniere. Ad esempio proprio Chiara e Maurizio, da quanto ho visto, hanno fatto una specie di contest su Facebook in cui hanno chiesto a creativi, a cioè tutti coloro che sapevano fare, di creare delle bomboniere e di mandargliele, le hanno pubblicizzate, le hanno fotografate eccetera eccetera, e queste sono state le loro bomboniere. Il tema era Disney ed erano oggetti utili. Cosa è venuto fuori? Andate a vedere sul sito, perché effettivamente c'è di tutto e di più. Sto già guardando, Cristina, sto già guardando. E poi a un certo punto poi arriveranno i figli, bisognerà fare anche gli figli con lo sponsor, insomma diventa Il battesimo con lo sponsor. La comunione con lo sponsor. Mi piace tantissimo, mi diverte molto. Cristina, grazie per essere stata con noi e per questo suggerimento, appunto, al mese delle spose. Per quest'anno non si fa in tempo, ma chissà, per l'anno prossimo forse sì. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristina, a presto. Grazie a Cristina Lazzati, grazie anche a Maria Luisa Pezzali. L'appuntamento con Essere Avere domani. Domani alle 15. Ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con l'ultima parte del sabato del villaggio. Cioè, mi stavo dimenticando di accendere il microfono. Sono veramente già in dirittura d'arrivo. Non che manchi poco, perché c'è ancora tutta l'ora in diretta di RadioTube dalle 17 alle 18. Ma fortunatamente verrà anche Daniele Bellasio in mio soccorso a farmi compagnia, e poi con un sacco di ospiti questa settimana a RadioTube, ve lo dico già, per parlare di Expo. Come sempre, per contattarci 349-238-6666, il numero per i vostri sms, c'è anche il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, anche per chi mi prende in giro perché dico troppo che fantastico, che meraviglia, ma io parlo solo delle cose che mi piacciono, perché se una cosa non mi piace, insomma, perché parlarne al sabato del villaggio? Mi piace segnalare le cose che fortunatamente ci rendono ancora felici, mi rendono ancora entusiasta. C'è qualcuno che mi chiede ancora come si fa ad avere biglietti per i concerti di Enrico Ruggeri, mi sono dimenticata quali sono le ultime tappe. A Campione e Roma, Campione 16 maggio, Roma 25 maggio, è il numero per gli sms 349-238-6666. Adesso però al sabato del villaggio, beh, il momento, lo facciamo ogni tanto, non lo facciamo tantissimo, però è il momento di parlare di teatro. Se non ti amo, guaglio io t'amo, ma se io t'amo tu sta attenta a te. Sta attenta a te. Se non ti amo, guaglio io t'amo. Fino al 17 maggio al Piccolo Teatro Strehler, La Carmen Mediterranea di Mario Martone. Testo di Enzo Moscato con Iaia Forte, Roberto De Francesco, e le musiche dal vivo dell'Orchestra di Piazza Vittorio, la stiamo ascoltando, diretta da Mario Tronco. Lo spettacolo apre la lunga estate al Piccolo, con oltre 300 appuntamenti di spettacolo nel semestre di Expo in città da ottobre a maggio 2015. Ma quanto è importante portare questa Carmen napoletana nella Milano di Expo? Lo abbiamo chiesto al regista, che torna al teatro dopo i trionfi cinematografici della scorsa stagione con il giovane favoloso Mario Martone. Sì, infatti la prima è stata stupenda, le recite stanno andando molto bene, e al Teatro Strehler ci sono i sopratitoli in inglese, perché il Piccolo in questo periodo dell'Expo sopratitola tutti i diversi spettacoli che presenta, ed è buffo perché naturalmente il nostro poi è in napoletano, a volte anche in napoletano stretto, allora in un napoletano che però, diciamo, parla anche la lingua della musica, e questa lingua sono tante lingue, no? Perché l'orchestra di Piazza Vittorio ha una meravigliosa fusione, no? Di suoni mediterranei e così via, quindi insomma, diciamo, questa idea di apertura al mondo mi pare che a Milano sia molto forte, ecco. È una Carmen mediterranea, napoletana, noi siamo napoletani praticamente tutti, perché Mario Tronco è di Caserta, ma quindi è napoletano anche lui, con Enzo Moscato, che ha scritto questo testo secondo me bellissimo, in cui si va alla matrice del teatro popolare napoletano, quindi Raffaele Viviani, una sceneggiata. E che Napoli è? È una Napoli molto vitale e allo stesso tempo tragica, come Napoli è, come Napoli è sempre stata. Tutti noi abbiamo, sappiamo cosa vuol dire un certo vicolo, una certa luce in un vicolo, che possiamo incontrare a Napoli, ma anche possiamo incontrare a Lisbona o ad Algeri o a Marsiglia, cioè un'idea di sud del mondo, no? dove vitalità e dramma sono a un passo l'uno dall'altro, proprio come quella luce nel vicolo, no? Che dal sole immediatamente passa al buio, insomma, dei contrasti molto forti. sono cose che stanno dentro il mito di Carmen, cioè Carmen è appunto un mito che è al tempo stesso di forza, di allegria, di vitalità, di sensualità, e dall'altro lato però invece c'è anche dentro una violenza, c'è anche una sopraffazione, insomma, quindi ci sono questi aspetti che si combattono, no? Fortissimamente, e quindi per questo naturalmente Napoli era uno scenario ideale, insomma è comunque la Napoli nostra. Poi naturalmente sul palcoscenico, come dire, c'è la tradizione del teatro napoletano, come dicevo, Viviani, la sceneggiata, una lingua che come dire, molto bella come quella di Moscato, e c'è anche invece una contemporaneità dell'orchestrazione di Piazza Vittorio, del modo in cui nel modo in cui le scenografie di Sergio Tramonti appaiono e scompaiono, insomma, no? È uno spazio nudo, quindi è un teatro al tempo stesso, insomma, nelle nostre intenzioni, come dire, antico e contemporaneo. Com'è abbracciare il teatro dopo un anno di grandissimo successo al cinema e di anche incassi, credo anche oltre ogni immaginazione? Certo, incassi davvero oltre ogni immaginazione. Io diciamo ero fiducioso nel film, pensavo sarebbe andato bene, ma è andato oltre ogni immaginazione. Sta andando anche molto bene in Francia, dove è stato accolto da critiche straordinarie e dove sta raccogliendo tanti spettatori e molto entusiasmo. Quindi sì, certamente è stato un anno speciale dal punto di vista del cinema, però io lavoro sempre, come dire, tra cinema, teatro, opera, cioè sono i miei cantieri, diciamo, sono sempre tutti aperti, in qualche modo anche tutti comunicanti, un modo di anche alimentare, no? un linguaggio con un altro, cioè per me, ecco, non avrei fatto il film su Leopardi se prima non avessi messo in scena a teatro le operette morali, che è stato, come dire, anche quello uno spettacolo che ha avuto un esito bellissimo e la prima prova che abbiamo avuto che davvero si poteva e forse si doveva davvero portare Leopardi a un pubblico ampio, no? E complimenti per i tre nastri appena annunciati, perché si apre la grande stagione dei premi e subito il giovane favoloso Tre Nastri d'Argento. Si apre una bella stagione, allora non diciamo niente di più perché il resto non si sa ancora, ma questi già sono un bel aperitivo. Grazie, veramente, grazie. Sono così contento che abbiamo fatto questa chiacchierata. Poi sabato del villaggio, quindi mi sembra, come dire, che fosse davvero la cosa giusta. Non volevo fare la battutaccia, però è bisognato. La posso fare io senza problemi, perché mi sembra, come dire, è l'amore per Leopardi, secondo me è la grande vera scoperta di tutta questa stagione leopardiana, in cui naturalmente il film è stato importante, ma tante sono state la pubblicazione dello Zibaldone in inglese, insomma c'è finalmente una vera grande attenzione per Leopardi, e soprattutto ha rivelato l'amore diffuso che tanti italiani hanno per questo poeta, per le idee, no? E per ciò che ha detto Leopardi, che oggi è così, come dire, che è così presente, no? Cioè non è qualcosa che riguarda solo il passato, riguarda adesso, insomma, ecco, Leopardi era come era una forza del passato, di un passato molto antico che guardava molto avanti, insomma, e quindi oggi noi ci troviamo a dialogare con lui, insomma, ecco, come se fossimo suoi contemporanei, e che tanti italiani sentano questa cosa con forza, con amore, con passione, è stata una scoperta bellissima. Grazie Mario, grazie mille, e allora in bocca al lupo per la stagione dei premi e anche per questa Carmen che seguiamo veramente con grande passione. Grazie Mario. Grazie a te, grazie a voi. Se non ti amo, voglio io t'amo, ma se io t'amo tu sta attento a te. Sta attento a te. Se non ti amo, voglio io t'amo. E questa era la Carmen mediterranea di Mario Martone, la voce era quella di Aia Forte. Beh, il sabato del villaggio in realtà si conclude qui, ma abbiamo poi l'ora di RadioTube, perché è già entrato in studio, ma non lo faccio ancora parlare perché non ho ancora le cuffie, non mi sente, non sente Daniele Bellasio. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché adesso è il momento di GR24 e poi saremo ancora insieme con RadioTube.